Capitolo 15. Sull'altare. In Francia le signorine fanno una vita ben noiosa finché non si maritano. Dopo, viva la libertà, diviene il loro motto. In America, come tutti sanno, la ragazza comincia col firmare la dichiarazione di indipendenza e si gode la sua libertà con repubblicano ardore. Ma la giovane sposa per lo più abdica appena dato al marito il primo erede ed entra in una clausura paragonabile a quella di una monaca in Francia, ma non altrettanto tranquilla. Le piaccia o non le piaccia, appena passato l'incanto dei primi mesi di matrimonio, la moglie viene collocata sopra un altare. Molte potrebbero dire, come abbiamo sentito da una di loro, sono più bella che mai, ma nessuno bada a me perché sono maritata. Questo dispiacere, non essendo una dama elegante alla moda, Meg non lo conobbe finché i suoi bambini non ebbero un anno di età, perché nel suo ambiente i costumi erano semplici ed ella si vide più ammirata e amata che mai. Era però una donnina piena di tutto ciò che fa la grazia femminile e possedeva assai forte l'istinto della maternità, per cui fu tutta e solamente assorta nei suoi bambini. Giorno e notte se li teneva sotto l'ala con devozione instancabile e con premura gelosa, lasciando John alle amorose cure della serva, perché ora avevano la serva, una irlandese che faceva la cucina. John era uomo di gusti casalinghi e sentiva molto la mancanza delle attenzioni alle quali era avvezzo, ma i bambini li adorava anche lui e per un po' rinunziò di buon grado alle sue comodità, supponendo, nella sua inesperienza, che ben presto le cose sarebbero tornate come prima. Ma passarono 3 mesi e nulla accennava a cambiare. Meg era sempre stanca e nervosa, i bambini le prendevano tutto il suo tempo, la casa era trascurata e Kitty, la servetta, tirava a campare e lo teneva a stecchetto. La mattina, quando usciva, era caricato di piccole commissioni dalla mammina che restava in casa. La sera, quando ritornava, contento, impaziente di riabbracciare i suoi cari, lo fermava sulla porta con un «st», perché i bambini si erano addormentati allora, dopo aver fatto il chiasso tutta la giornata. Le proponeva un piccolo divertimento in casa? No, perché avrebbe disturbato i piccini. Parlava di andare a una conferenza, a un concerto, e la proposta era accolta con un'occhiata severa. E dovrei lasciarli per andare a divertirmi? Mai! Di notte gli rompevano i sonni, i trilli infantili e la visione di una bianca ombra silenziosa che andava e veniva. I suoi pasti erano interrotti dal frequente alzarsi della padrona di casa, che smetteva di servirgli la minestra perché aveva udito un vago pigolio su nel nido. La sera, quando leggeva il giornale, i doloretti di ventre di Demi si cacciavano dentro gli arrivi e partenze dei porti e una caduta di Daisy si intrometteva nel listino di borsa. Quanto alla signora Brooke, lei non si interessava che delle notizie domestiche. Il povero marito aveva una vita tutt'altro che piacevole. I figliuoli gli rubavano la moglie ed egli si sentiva un intruso appena metteva il piede nella sacra cinta di Bambinopoli. Per 6 mesi prese la cosa con molta pazienza, ma infine, non vedendo alcun segno di mutamento, fece quello che fanno i padri esclusi dal sacrario domestico: cercò qualche conforto fuori casa. Anche Scott si era ammogliato e abitava non molto lontano. John prese l'abitudine di andare da lui la sera per un paio d'ore, quando si sentiva solo nel salotto mentre la moglie cantava la ninna nanna senza fine. La signora Scott era vivace e graziosa e per il momento, non avendo altra missione che quella di piacere al prossimo, vi si applicava con gran successo. Il suo salotto era attraente e animato, la scacchiera pronta per la partita, il piano ben accordato, mille chiacchiere allegre e una bella tavola apparecchiata che metteva appetito a vederla. John avrebbe preferito il proprio focolare se non fosse stato così solitario, ma stando le cose come stavano, si accontentava del surrogato più prossimo e accettava con riconoscenza l'ospitalità dell'amico. A Meg sulle prime la cosa fece piacere. Era un pensiero di meno vedere che John, anziché starsene in salotto a sbadigliare o dondolarsi per la casa e svegliare i bambini col suo passo pesante, si era trovato uno svago. Ma a poco, passato il fastidio della dentizione, i due tesorini presero l'abitudine di dormire a ore regolari e la loro mamma ebbe un po' di pace. Allora cominciò a sentire la mancanza del marito e ad accorgersi che il cestino da lavoro era una compagnia poco allegra quando John non era lì, davanti a lei, avvolto nella vecchia veste da camera e comodamente seduto ad arrostirsi le pantofole al fuoco del caminetto. Digli di stare a casa ella non osava, ma le dispiaceva che egli non ci pensasse da sé, senza bisogno di farselo dire, che lei lo avrebbe voluto lì. Meg dimenticava quante sere era toccato a lui desiderare la compagnia della moglie e non averla. Nervosa e stanca per le veglie e i pensieri, ella si trovava in quello stato d'animo in cui la donna migliore diventa irragionevole, perché oppressa dalle cure domestiche, intristita dalla vita rinchiusa e sedentaria e dall'eccessiva devozione a quell'idolo delle americane che è la teiera. Già, diceva guardandosi nello specchio, invecchio, divento brutta e vada alla graziosa vicina che non ha pensieri né fatiche. Non importa, i bimbi mi vogliono bene, loro non ci badano se sono magra e pallida e non ho il tempo di farmi ricci. Sono loro il mio conforto e un giorno John lo vedrà che cosa ho sacrificato per essi con gioia. È vero, cari? A tale appello commovente, Daisy rispondeva tubando come una colomba ed Amy gracchiando come una giovane gazza. E allora Meg non si lamentava più e cadeva in una dolce fantasticheria di madre felice che per un po' la consolava. Ma il suo amore peggiorava. Adesso John si riscaldava per la politica e andava ogni giorno da Scott, col quale aveva sempre qualche argomento appassionante da discutere. Che Meg sentisse la sua mancanza non gli passava per il capo. Ella però non disse nulla a nessuno fino a che un giorno la madre la trovò in lacrime e volle sapere che cosa aveva. Già da un pezzo non le sfuggiva che il morale di Meg era depresso. Oh, a nessun altro lo direi, ma a te lo dico, mamma, perché ho proprio bisogno di consiglio. Se John continua così, tanto vale per me essere vedova, disse la giovane signora Brooke, inquieta, asciugandosi le lacrime con la bavarola di Daisy. Continua come? Chiese la madre preoccupata. Il giorno è sempre fuori e la sera, quando mi farebbe piacere averlo con me, va sempre dagli Scott. Non è giusto che io abbia il lavoro più duro e mai un po' di distrazione. Gli uomini sono egoisti, ecco, anche i migliori. Anche le donne, figliuola. Prima di condannarlo, vedi un po' se anche tu non hai qualche torto. Ma ti par giusto trattarmi a questo modo? E tu non trascuri lui? Mamma, io credevo che tu avresti preso le mie parti. E le prendo finché si tratta di compatirti, ma credo che la colpa sia tua, Meg. Ma com'è possibile? Lascia che te lo spieghi. Ti trascurava, come dici tu, John, quando tu ti facevi premura la sera, che hai solo tempo nel quale libero di fargli compagnia? No, ma ora non posso. Ho da badare a due bambini. Vedi, cara, io invece credo che potresti e dovresti anche. Posso parlarti liberamente? Sei convinta che il dovere di tua madre, oltre a compatirti, è anche quello di darti torto, se l'hai? Ma sì, mamma, parlami pure come alla piccola Meg di una volta. Quando vedo i miei due bambini che hanno bisogno di me ad ogni momento, mi accorgo più che mai di quanto bisogno ho io stessa di una mamma che mi insegni. Meg trasse la seggiola bassa presso quella della mamma. Le due donne si chinarono, si strinsero e parlarono. Madri ambedue ora si sentivano unite anche maggiormente da questo legame. Il tuo sbaglio è stato quello che fanno quasi tutte le giovani spose, che per amore dei figli dimenticano i doveri che hanno verso il marito. È uno sbaglio assai naturale e perdonabile, figliuola, ma è di quelli a cui bisogna rimediare prima che allontani troppo il marito. I figliuoli vi devono unire maggiormente, non separare, come se fossero solo tuoi e a John non spettasse che mantenerli. Da qualche settimana io ti osservavo, ma non dicevo nulla, sperando che la cosa avrebbe finito con l'accomodarsi da sé. Temo di no. Se gli dico di restare a casa, gli crederà che io sono gelosa e questo non voglio che lo pensi. Mi parrebbe di fargli un'offesa e lui intanto non si accorge che io lo vorrei con me e non so come farglielo capire. Fai in modo che con te si trovi tanto bene da non sentire il bisogno di andar fuori. Cara mia, lui la desidera tanto, la sua casetta, ma senza di te non è più casa e tu sei sempre nella camera dei bambini. Ma non è il mio dovere. Sì, ma non devi esagerare. A forza di vivere rinchiusa, tu diventi nervosa e allora non sei più buona a nulla. E poi tu hai dei doveri anche verso di lui, oltre che verso i bambini. Non trascurare il marito per i figli, non lo chiudere fuori della loro stanza, ma fa piuttosto che gli impari come rendersi utile. Il suo posto è là dentro, né più né meno che il tuo. E i bimbi hanno bisogno anche di lui. Fagli sentire che anche lui ha la sua parte da fare. Egli la farà contento e premuroso e andrà meglio per tutti. Davvero credi così, mamma? Lo so, Meg, per pratica. È raro che io dia un consiglio se non ne ho fatto l'esperienza da me stessa. Quando tu e Joe eravate piccine, io facevo proprio come fai tu adesso. Mi pareva di mancare al mio dovere se non mi dedicavo a voi due interamente. E il povero babbo si rifugiava nei suoi libri, visto che io da lui rifiutavo ogni aiuto e me lo offriva. Così mi lasciò provare il sistema da sola. Io lottai e tirai innanzi quanto potei, ma Joe non si lasciava dominare e per poco non la viziavo a forza di dargli le vinte. Tu invece non stavi molto bene e mi davi tanto pensiero. Allora tuo padre venne alla riscossa e senza chiasso prese la direzione. E mi fu di tanto aiuto che ben presto vidi qual era stato il mio errore. Da allora non sono stata più capace di fare senza di lui. È questo il segreto della nostra felicità domestica. Lui non lascia che le sue faccende lo distolgano, lo divezzino dai doveri comuni ad ambedue i genitori. E io cerco di fare in modo che le cure della casa e della famiglia non mi facciano perdere ogni interesse nelle sue occupazioni di uomo. In molte cose ciascuno di noi due fa la sua parte da solo, ma in casa, in famiglia, si collabora tutti e due, sempre. È così, mamma. È il mio gran desiderio di essere per mio marito e per i miei figli ciò che sei stata tu per i tuoi. Insegnami tu il modo, farò tutto ciò che mi dici. Sì, tu sei sempre stata la mia figliuola più obbediente. Ebbene, senti, cara, se io fossi al tuo posto farei in modo che John avesse una parte maggiore nell'educazione di Demi. Quel bimbo ne ha bisogno. E non è troppo presto per cominciare. E un'altra cosa farei. Come ti ho proposto io più di una volta, accetterei che Anna venisse un po' ad aiutarti. Come bambinaia è impareggiabile e tu le potresti affidare i tuoi due tesorini per dedicarti meglio alla casa. Ci guadagneresti potendoti muovere di più. Anna avrebbe una vita un po' riposata e le farebbe bene. E John ritroverebbe sua moglie. Vivi un po' fuori. Cerca di essere gaia oltre che attiva. Sei tu che devi portare la serenità nella famiglia. Se ti avvilisci, addio serenità. Al tuo posto, io cercherei anche di interessarmi di tutto ciò che fa John, di parlargliene, di farmi leggere da lui qualche libro o il giornale. Dovreste scambiarvi le vostre idee, sostenervi, insomma, a vicenda, anche così. Non devi chiuderti in una scatola perché sei donna. Devi renderti conto di ciò che succede fuori, abituarti, educarti a prendere la tua parte nelle cose del mondo, perché la vita esterna ha la sua influenza su te e sui tuoi. Ma John è così intelligente e temo che mi prenderà per una sciocca se comincio a domandargli spiegazioni sulla politica e sugli affari del mondo. Non lo credo affatto. L'amore copre tanti difetti e tu a chi potresti rivolgerti più liberamente che a lui? Prova e vedrai che troverà la tua conversazione più piacevole dei pranzetti della signora Scott. Proverò, mamma. Povero John. Mi pare di accorgermi adesso che in realtà l'ho abbandonato troppo, ma credevo di far bene. Lui non ha mai detto niente. Si capisce, non vuol mostrarsi egoista, ma chissà quante volte lo sente di essere un po' abbandonato. Questo è il momento buono, Meg. È il momento in cui le giovani coppie rischiano di dividersi, ed è proprio quello in cui è necessario più che mai che si tengano unite. La tenerezza dei primi tempi si esaurisce presto, se non si cerca di mantenerla in vita. Per i genitori non c'è un periodo bello e prezioso come i primi anni delle giovani vite che si hanno da allevare, da educare. Fai in modo che John non rimanga un estraneo per i vostri bambini. Sono loro che, più di qualunque altra cosa, serviranno a salvarlo dai pericoli, dai fastidi, dai dolori della vita. Per mezzo dei figli voi imparerete davvero a conoscervi e ad amarvi l'un l'altro. E adesso, addio, figliuola. Ripensa ai consigli che ti ho dato, seguili se ti persuadono e che Dio vi benedica tutti e quattro. E Meg ci ripensò ai consigli di sua madre, li trovò buoni e li seguì, seppure il primo tentativo non si svolse proprio nel modo che lei aveva disegnato. Inutile dire che fino allora i due gemelli erano stati piccoli tiranni della casa. Questo era cominciato appena si erano accorti che a strillare e strepitare ottenevano ciò che volevano. La mamma era la schiava dei loro capricci. Ma non era altrettanto facile imporsi al babbo. E più di una volta gli aveva fatto soffrire la tenera sposina cercando di insegnare l'ubbidienza al turbolento rampollo. Demi aveva ereditato da lui un po' della sua fermezza, non diremmo ostinatezza. E quando si era cacciato nella piccola testa di volere o non volere una cosa, non bastavano tutti i cavalli e tutti gli uomini del re a fargli cambiare idea. La mamma pensava che fosse ancora troppo piccino per insegnargli a moderare i desideri, ma il babbo non lo credeva affatto. Sicché il signorino Demi si accorse ben tosto che col babbo era inutile ostinarsi, non la spuntava e ne usciva sempre con la peggio. Come hanno fatto sempre gli inglesi coi loro vincitori, Demi rispettava il padre, lo amava. Quando questi si faceva serio e diceva no, otteneva più effetto di tutte le correzioni materne, che in sostanza erano carezze. Pochi giorni dopo quella tale conversazione con sua madre, Meg una sera volle fare l'esperimento. Preparò una buona cenetta, mise bene in ordine il salotto, si appigliò con cura particolare e pose i bimbi a letto presto perché non disturbassero. Ma, sventuratamente, la cosa contro la quale Demi si ribellava più spesso e più ostinatamente era proprio l'essere messo a letto, e proprio quella sera decise di fare il cattivo e di non volersi addormentare. Invano la povera Meg lo cullò, gli cantò la ninna nanna, gli raccontò le fiabe, insomma, ricorse a tutto il repertorio per fargli venire sonno. Ogni cosa era vana, quegli occhioni non si volevano chiudere. Daisy, da quella pacioccona buona che era, dormiva già da un pezzo, invece Demi, il cattivaccio, spalancava i suoi occhioni e di prender sonno non gli passava nemmeno lontanamente per la testa. Starà cheto, Demi, come un bambino buono, intanto che la mamma va di sotto a dare il tè al povero babbo? Domandò Meg quando udì chiudere con precauzione la porta d'ingresso e il passo ben noto attraversare il tinello in punta di piedi. Anch'io tè, disse Demi, alzandosi per scendere. No, tu avrai i biscottini zuccherati per colazione, ma adesso fai la nanna come Daisy, è vero tesoro? Sì, fece Demi chiudendo gli occhi come per dormire e far giungere in un lampo il desiderato momento dei biscotti. Meg pensò di approfittarne per svignarsela cheta cheta e scendere di corsa incontro al marito, col sorriso sul volto e il nastro azzurro nei capelli che a lui piaceva tanto. John lo notò subito e, lietamente sorpreso, domandò: Oh, mammina, come siamo eleganti questa sera! Aspetti gente? Te solo aspetto, caro. Ma cos'è? Qualche onomastico? Qualche ricorrenza? No, ho detto basta fare la mummia, l'addormentata. Mi sono vestita un po', così, tanto per cambiare. Tu, per l'ora di cena, ti metti sempre con cura, anche se ti senti stanco, perché non devo farlo anch'io quando ho tempo. Io lo faccio per un riguardo a te, disse John, uomo all'antica. Idem, idem, Mr. Brooke, disse Meg, ridendo. Era giovane e bella come sempre, gli ammiccava attraverso la tavola, bene apparecchiata. Molto bene, mi piace, come una volta, Alla tua salute. È più buono così. E John beve il primo sorso di tè, contento e riposato. Ma la pace durò ben poco. Mentre deponeva la tazza, la maniglia della porta ebbe un movimento, appena percettibile, e di fuori una vocina impaziente gridò: A Pippotta, vengo io! Ecco il monello. Gli ho detto che dormisse senza di me. Invece, eccolo, viene giù a prendersi un raffreddore coi piedini nudi sulla passatoia, spiegò Meg al marito. È già domattina, annunziò Demi, entrando tutto allegro, con una lunga camicia da notte raccolta elegantemente sul braccio, e si precipitò verso la tavola, dove i biscottini dolci, promessigli per la colazione, c'erano già. No, non è domattina ancora, e devi andare a letto e lasciare in pace la povera mamma. Dopo lo avrai il biscottino dolce. Bene, io a papà, dichiarò il piccolo diplomatico cercando di arrampicarsi sulle ginocchia paterne e raggiungere il paradiso vietato. Ma John scosse il capo e disse: Meg, tu gli hai detto che deve stare a letto e addormentarsi senza di te, è vero? Bene, faglielo fare, se no non impara mai a darti retta. Sicuro, è naturale. Vieni, Demi. E Meg condusse via il bambino, che trotterellava contento al suo fianco, pensando che il premio l'avrebbe avuto subito, appena giunto su in camera. Sante sculacciate. Del resto non si ingannava, il piccolo guastafeste, per quanto riguardava la mamma. Piena di tenerezza, ma poco giudiziosa, la buona Meg gli diede un pezzo di zucchero e poi lo accomodò sotto le coltri, ordinandogli che non si muovesse più dal letto fino al mattino. Ci, promise il piccolo spergiuro mentre succhiava beato lo zucchero e si sentiva pienamente soddisfatto fin qui dei risultati ottenuti. Meg tornò da basso, la cena riprese allegramente, quando ecco comparire il piccolo fantasma bianco e denunziare l'errore materno col chiedere sfacciatamente: Antola zucchero, mamma. Questo non va, dichiarò John e fece il volto serio e duro. Tu non avrai mai un minuto di pace se questo bimbo non impara ad andare a letto e a starci come si deve. È già troppo tempo che sei la sua schiava. Dagli una lezione e che sia finita. Mettilo a letto e lasciacelo. Non ci vuole stare. Non ci sta se non rimango lì anch'io. Lascia fare a me, allora. Demi, va subito di sopra e mettiti a letto come ti ha detto la mamma. No, rispose Demi ribellandosi. Allungò la zampa sul biscottino e senza scomporsi lo addentò. Non si dice no al babbo. O vai su o ti ci porto. Va via tu, papà. No, voglio bene. E Demi si rifugiava nelle gonne materne. Ma anche quell'asilo non gli servì a nulla. La mamma lo consegnò al nemico. Sii buono con lui, John, raccomandò. Allora il colpevole vide che tutto era perduto. Quando lo abbandonava la mamma, voleva dire che era proprio il giorno del giudizio. Privato del biscotto e vedendosi negare la festicciola che si era ripromessa, il povero Demi non riuscì a frenare la rabbia e si ribellò apertamente con calci e strilli a gran voce fra le braccia del padre che lo portava su per la scala. Messo a letto, scappò dall'altra parte per lanciarsi verso la porta, ma il tentativo fallì ignominiosamente. Riacchiappato per la falda della camicia, venne di nuovo messo giù e tenuto energicamente finché gli mancarono le forze. Non gli restava che urlare con quanto fiato aveva e non mancò di farlo. Con la mamma quel mezzo era di solito infallibile, ma il babbo restava lì, immobile, inflessibile. Niente moine, niente zucchero, niente ninna nanna, niente fiabe. Anche il lume venne spento e solo rimase il rosso del fuoco del caminetto a illuminare le tenebre. Lo scuro scuro che del resto ad Emi metteva più curiosità che timore. Ma questo nuovo stato di cose gli andò a genio ancora meno. Cominciò a piangere disperatamente, a chiamare la mamma. Però, adagio adagio, si andava calmando quel piccolo tiranno prigioniero. Agli strilli di rabbia era successo il pianto e il pianto toccò il cuore alla sua vittima abituale che salì di corsa la scala a supplicare. Oh, lasciami con lui, John, ora starà buono. No, cara, gli ho detto che deve dormire come gli hai ordinato tu e dormirà dovessi restar qui fino a domani. Ma se piange tanto si ammala, osservò Meg. Ora si pentiva di averla abbandonato il suo piccino. No, non temere, è stanco e dormirà subito e così sarà finita. Imparerà che deve dar retta. Non ti mettere di mezzo, lascia fare a me. È figlio mio e non voglio che tu gli spezzi il cuore con la tua durezza. È figlio mio e non voglio che tu lo guasti con la tua debolezza. Va giù, cara, lascia fare a me. Quando John prendeva quel tono, Meg ubbidiva sempre e non aveva mai a pentirsene. Voglio dargli un bacio prima, John, uno solo. Questo sì. Demi, di' buonanotte alla mamma e lascia che vada a riposare. È molto stanca e tutto il giorno che bada a te. Sosteneva sempre Meg che con un bacio lei otteneva tutto, e anche stavolta, pressappoco, ebbe ragione. Avuto il bacio, il piccolo prepotente continuò a singhiozzare, ma sempre meno, e non si muoveva dal fondo del letto, dove si era ridotto nelle sue contorsioni per ribellarsi e fuggire. Povero piccolo, pensò John, è stanco morto dal sonno e dal piangere che ha fatto. Adesso lo ricopro bene e scendo a rassicurare Meg, e John ritornò verso il letto in punta di piedi. Faceva conto di trovarlo già addormentato, il suo indisciplinato rampollo. E invece no. Appena ebbe la sensazione che il babbo lo guardava, Demi spalancò gli occhi, le labbra si mossero, mentre le braccine si protendevano. Con un singhiozzo pentito, il ribelle assicurò: Buono io, papà. Di fuori, seduta sui gradini, Meg tendeva l'orecchio al silenzio improvviso che si prolungava. Cosa mai succederà là dentro? Ogni sorta di accidenti impossibili le passarono per la mente. Non ne poté più, si levò ed entrò. Voleva sapere, voleva togliersi la paura. Demi dormiva già profondamente, non nella solita posa di aquila ad ali aperte, ma tutto raccolto in tondo entro il braccio del padre e tenendogli un dito stretto con una delle manine, quasi sentisse che quel braccio era la giustizia che sa colpire, ma temperata dalla grazia che sa perdonare. S'era addormentato, insomma, triste ma migliore. John attendeva con la pazienza di una madre che la stretta della manina si rallentasse e si era addormentato anche lui, stancato più dalla piccola battaglia sostenuta col suo bambino che da tutta la giornata di lavoro. Meg osservò il gruppo, osservò le due facce, una accanto all'altra sul guanciale, sorrise e si allontanò senza rumore, pensando soddisfatta. Non c'è paura che John sia troppo duro coi miei figli. Come vanno trattati lo sa lui. E sarà un bel aiuto per me con Demi. Per Demi ormai le mie forze cominciano a non bastare. Quando alfine discese, John si aspettava da lei il broncio e chissà che rimproveri. Invece, ebbe la lieta sorpresa di trovare Meg occupata a guarnirsi un cappellino e di sentirsi pregare che leggesse qualche cosa delle lezioni se non era stanco. Vide subito che si andava compiendo un'evoluzione, ma di che genere? Saggiamente si guardò dal fare domande. Sapeva bene che la sua Meg era un piccolo essere trasparente, incapace di tenere un segreto anche se ne andava della vita. Perciò la chiave del mistero non si poteva far attendere. Premuroso le lesse il lungo resoconto di una discussione e glielo commentò in modo chiarissimo. Meg cercò di mostrare interesse, di fare qualche domanda intelligente, di non divagarsi col pensiero dietro il cappellino e le guarnizioni, dimenticando gli interessi statali e nazionali. Ma nell'intimo dell'anima, intanto, pensava che la politica è una cosa dura e tediosa quanto la matematica. E tutti quei politicanti non pareva che nella vita avessero altra missione che di ingiuriarsi a vicenda. Ma queste idee da donne le tenne per sé. Alla prima pausa della lettura, ella scosse il capo e osservò, dandosi come poteva un'aria di gravità diplomatica. Ma, domando io, dove si va a finire? John si mise a ridere e stette a osservarla qualche istante. Ella stava componendosi in una mano una graziosa guarnizione di fiori finti e tulle e, si vedeva bene, l'interesse col quale la considerava era molto più sincero di quello mostrato per la discussione parlamentare. Ma John, l'uomo giusto, pensò, per me lei cerca di prender gusto alla politica, per lei io cercherò di prender gusto ai suoi capelli, e disse, è molto grazioso, salvo errore è quello che voi chiamate una cuffia per il mattino. No, caro, è un cappello, il mio più bel cappello per teatro e per concerto. Oh, scusami, a vederlo così piccolo l'ho preso per una di quelle cosette capricciose che voi portate qualche volta, come fate a tenerlo in testa che non vi caschi? Questi due nastri si annodano sotto il mento con un bocciolo di rosa, così guarda. E Meg si mise in testa il cappello e guardò il marito con un'aria seria e soddisfatta che era impagabile. È un amore, ma io preferisco il volto che esso incornicia, perché adesso è tornato giovane e contento. E John lo baciò, il desiato viso, a costo di rovinare irreparabilmente il bocciolo di rosa sotto il mento. Sono contenta che ti piace, perché qualche sera tu mi devi condurre a uno di quei concerti della stagione che hanno inaugurato. Mi ci vuole proprio un po' di musica per mettermi in tono. Ci andremo, è vero? Sicuro? Ti ci condurrò con molto piacere. Ai concerti e dove vorrai. Hai vissuto rinchiusa troppo a lungo e ti farà un gran bene, e per me sarà la più gran gioia che puoi darmi. Come ti è venuta l'idea, mammina? È stato così. L'altro giorno ho avuto una conversazione con la mamma e le ho detto che mi sentivo tanto nervosa e irritabile e fuori squadra. E lei ha detto che per me ci vuole un po' di svago e meno pensieri. E così verrà Anna per darmi una mano coi bambini. E io potrò vivere un po' fuori, vedere il mondo e ogni tanto prendermi un piccolo divertimento. Se non voglio diventare vecchia, intrattabile e finita prima del tempo. Non è che un esperimento, John, e io lo voglio tentare per amor tuo e anche per amor mio. In questi ultimi tempi ti ho trascurato in un modo vergognoso. Adesso voglio che la nostra casa ritorni ciò che era una volta, se mi riesce. Tu non hai nulla in contrario, è vero? Ciò che disse allora John e che pericolo corse il cappellino in lavorazione, non importa dirlo. Quello che interessa è di sapere che, in contrario all'esperimento, John non pareva avesse proprio nulla. Se dobbiamo giudicare dai cambiamenti che a poco si videro nella casa e nelle persone che ci vivevano. Non divenne un paradiso, oh no, ma tutti si trovarono meglio grazie alla divisione del lavoro. I bambini diventarono sempre più buoni sotto la guida paterna, poiché John, perseverante e magari un tantino pignolo, instaurò a Bambinopoli un regime di ordine e di disciplina. Il morale di Meg si rialzò, i suoi nervi si andarono calmando grazie al moto, a qualche piccolo svago e alle frequenti conversazioni in piena comunità di spirito con un marito intelligente. La loro casa fu di nuovo la casa e a John non veniva più in mente di uscire se non andava con lui anche la moglie. Adesso erano gli Scott che venivano dai Brooke, nella casetta lieta ed accogliente, piena di felicità, di gioia e di amore. Anche la Gaia Sally Moffat prese gusto a venirci. È così tranquillo, così bello qui da te, Meg, diceva, che fa bene all'anima. Ti e si guardava intorno con gli occhi pensosi, quasi volesse scoprire l'incantesimo usato da Meg, per applicarlo anche nella sua grande casa ricca ma un po' solitaria, senza bimbi turbolenti e con un marito che viveva in un mondo tutto suo dove non c'era posto per lei. La felicità domestica non venne tutta in una volta, ma John e Meg ne scopersero il segreto e ogni anno che passava insegnava a lui e a lei il modo di usarlo. Quel segreto era la chiave che dischiude i tesori del vero amore per la casa e del conforto reciproco. Una cosa che possono possedere anche i poveri e che non si compra col denaro. È come se le giovani spose e le giovani madri si lasciassero collocare sopra un altare, al sicuro dalla irrequietezza febbrile del mondo, senza sognare la devozione di un fido amante da romanzo, perché basta loro l'amore dei bimbi e delle bimbe che si attaccano alle loro materne sottane. Non valgono ad abbatterci allora il dolore, la povertà, la vecchiezza. Si cammina fianco a fianco, al sereno e alla tempesta, con l'amico fedele che è, nel vero significato della vecchia aurea parola sassone, il Hausband, l'abitante della casa. Si impara, come imparò Meg, che il vero paradiso, il vero regno della donna, è la casa, il più alto onore è l'arte di governarla, non da regina, ma da moglie e da madre saggia.